giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dopo il via libera di EMA, AIFA e Istituto Superiore di Sanità, oggi in Gazzetta Ufficiale il piano per le quarte dosi destinate a chi ha più di 60 anni, alle regioni il compito di organizzare le campagne vaccinali. Ma per curare il Covid ora abbiamo a disposizione anche gli antivirali, che però vengono prescritti poco. Uno dei motivi è la difficoltà di escludere rischiose interazioni con altri farmaci. In aiuto dei medici, uno specifico programma informatico. Confronto tra regione e sindacati sul futuro delle USCA, il personale che visita a domicilio i malati di Covid. Cambiano nome e diventano UCA, ma l'assistenza verrà garantita grazie all'adeguamento di stipendio chiesto dai medici. Emergenza caldo, Confindustria Alto Adriatico e sindacati sottoscrivono un accordo sulle misure da adottare nelle aziende per contrastare i disagi dei lavoratori dovuti all'AFA. Produzione di acque minerali e scarsità di anidride carbonica. Goccia di Carnia riesce a fare un nuovo rifornimento, ma durerà poco mentre mancano altre materie prime e caccia anche ai bancali e ai tappi per le bottiglie. Fa un volo di un centinaio di metri nel greto del torrente, sopravvive, accaduto in Valdogna, un uomo di 73 anni, abbagliato dal sole mentre percorreva con la sua Jeep una stradina della zona. Aumenta di altri 40 milioni di euro e arriva a 764 milioni la manovra estiva di bilancio. Il testo è stato approvato ieri in prima commissione del Consiglio regionale. 18 milioni andranno ai consorzi di bonifica per nuovi invasi di raccolta dell'acqua. Il sindaco di Trieste è contro gli assembramenti di migranti in Piazza Libertà, dove chi arriva in Italia trova assistenza. D'estate aumentano e ora Di Piazza sta pensando di far recintare l'area. Consegnati in carcere a Trieste 20 diplomi di scuola elementare e media e di corsi di lingua inglese, soprattutto a detenuti stranieri, ma servirebbero più spazi, fondi e personale. Università, partite le immatricolazioni per il nuovo anno accademico a Trieste, a Udine si apriranno domani per farsi conoscere, gli Atenei stanno proponendo a studenti e famiglie visite guidate e incontri con i docenti. Le 7:20, buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Il cielo è sereno o poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. Trieste 22 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 23 gradi e mezzo. Udine e Pordenone 21, Gorizia 19, Tolmezzo 18, Forni di Sopra 14, Biancavallo 12 e mezzo, Sappada 10 e mezzo, Tarvisio 9 e mezzo, Monte Zoncolan 9 e mezzo, Lussari 8, Lignano e Grado 22, con una temperatura del mare di 26 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo in genere sereno su bassa pianura e costa, poco nuvoloso sulle altre zone per locale nuvolosità pomeridiana. Sulla zona montana dal pomeriggio sarà possibile qualche locale breve pioggia, venti a prevalente regime di brezza. A Trieste di mattina e in serata soffierà borino. Secondo le previsioni ci aspetta una nuova ondata di caldo torrido che potrebbe creare problemi ai lavoratori delle industrie. Per questo Confindustria Alto Adriatico e i sindacati hanno sottoscritto un accordo che prevede un pacchetto di interventi per ridurre i disagi provocati dall'AFA nelle aziende. Confindustria Alto Adriatico e CGIL CISL UIL alzano la soglia d'allerta in ragione delle mutate condizioni stagionali che comportano e comporteranno probabilmente una maggior frequenza di episodi climatici estremi e particolarmente critici. In riferimento al protocollo sottoscritto nel 2019, allora si decise di normare gli aspetti legati a specifiche condizioni geografiche e le imprese adottarono apposite procedure per valutare e applicare le migliori soluzioni per ridurre i disagi ai lavoratori. L'attualità ha suggerito, per il benessere degli stessi lavoratori, da un lato di estenderlo al maggior numero di aziende e dall'altro di integrarlo anche alla luce dell'evoluzione tecnologica. Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico. Si concretizza nell'individuare delle buone pratiche che possono riguardare per esempio gli orari, strumenti, tecnologie che possono essere messi a disposizione delle aziende, che comunque dovranno essere valutate dalle OPP, dalle RSVP di ogni singola azienda per vedere di migliorare la condizione di vita dei lavoratori all'interno delle aziende in un periodo come questo. Non solo di sicurezza sul lavoro ma anche di Covid-19 ha parlato il presidente di Confindustria Alto Adriatico nel corso dell'incontro con la stampa. Riferendosi al picco previsto per fine luglio, il presidente ha evidenziato in inoltre l'importanza e il valore dei comitati anti-Covid mai sciolti, aggiungendo che bisogna essere attenti a ciò che accade oggi, perché potrà avere ripercussioni anzitutto sulla salute dei lavoratori e inevitabilmente sulle produzioni. Siamo pronti, ha concluso, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie regionali, a rimettere tutto il nostro armamentario in campo. Da parte dei sindacati è stata unanimemente ribadita la necessità di allargare ad altri settori, come ad esempio la sanità, le esperienze delle buone pratiche sin qui adottate assieme a Confindustria. Pordenone, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo il via libera dell'Agenzia Europea e di quella italiana del farmaco e dell'Istituto Superiore di Sanità, sarà pubblicato oggi dalla Gazzetta Ufficiale il piano per le quarte dosi di vaccino anti-Covid destinate a chi ha più di 60 anni e per i soggetti fragili dai 12 anni in su. Poi le regioni si dovranno organizzare per le campagne vaccinali, riaprendo gli hub se le richieste saranno numerose, come aveva fatto sapere in regione il vicepresidente Riccardo Riccardi, ma anche con l'aiuto dei medici di famiglia e delle farmacie. Ma per combattere il Covid ora non ci sono solo i vaccini, ma anche i nuovi farmaci antivirali, anche se nei giorni scorsi il primario di infettivologia di Milano, Andrea Gori, aveva denunciato il fatto che in Italia se ne prescrivono troppo pochi, anche con l'idea sbagliata che servano solo in caso di sintomi gravi. A Fernando Agrusti, della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, abbiamo chiesto se è così e perché i medici sono resti a prescriverli. Probabilmente si somministrano pochi antivirali, probabilmente andrebbe data un'ulteriore pubblicità nel senso positivo, cioè di quando usare questi antivirali sia ai medici che poi al paziente stesso. C'è da dire che la prescrizione di questi farmaci presuppone anche la valutazione attenta di tutta una serie di, oltre che di controindicazioni, ma di interazioni che questi farmaci hanno con i farmaci che magari la persona, che spesso rientra tra quelle che si chiamano categorie fragili, per cui sono politrattati, e quindi questo chiaramente costituisce una difficoltà ulteriore. Ecco, c'è da dire che recentemente è stato elaborato un sistema di tipo informatico che incrocia i dati della cartella clinica gestionale che uno di noi come medici di famiglia ha con l'antivirale e quindi prende in esame tutte le eventuali interazioni che esistono tra i farmaci che già la persona prende per le varie patologie che può avere e questo farmaco. Per cui sicuramente questo è un qualcosa che viene incontro e aiuta molto il medico nel prescrivere questi farmaci, perché in maniera rapida e automatica mette in relazione appunto l'antivirale con gli eventuali farmaci che questo prende, quindi ti dice subito se il farmaco può essere somministrato senza problemi o se è meglio invece non somministrarlo, perché ci sono degli altri farmaci che controindicano l'utilizzo di questo farmaco. Ieri c'è stato un confronto tra la Direzione Centrale della Salute della Regione e i sindacati dei medici sul futuro delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, nata dall'inizio della pandemia per l'assistenza domiciliare alle persone malate di Covid. Sentiamo che cosa ne è emerso. Dopo 11 giorni di servizio garantito a macchia di leopardo e quasi inesistente al di fuori di Asugi, potrebbe presto sbloccarsi il travagliato passaggio da USCA a UCA, unità di continuità assistenziale, ma senza più la S di speciali, perché le USCA volute in pandemia hanno cessato di esistere il 30 giugno scorso. Un decreto ministeriale dà il potere alle regioni di istituire nuove equip mobili distrettuali, un medico e un infermiere ogni 100.000 abitanti, le UCA. L'interpretazione della regione finora è stata che il compenso dovesse essere 23 euro l'ora, guardando al contratto nazionale della continuità assistenziale, le guardie mediche, non più di 40 euro. L'assessore alla salute Riccardi annuncia ora che saranno riconosciuti i vecchi trattamenti economici ai medici che dalle USCA decideranno di passare alle UCA. Si tornerà a 40 euro quindi. Lo stanziamento potrebbe aggirarsi intorno al 1 milione di euro. Il nuovo servizio però dovrà passare da un accordo da firmare coi sindacati medici. Se UCA saranno, i camici bianchi non dovranno più occuparsi solamente della gestione sul territorio, a domicilio dei pazienti positivi al coronavirus, ma di molto altro, inclusi programmi di prevenzione territoriali per ondate di calore e vaccinazioni domiciliari, come previsto dal decreto. Da qui anche la richiesta di un compenso non certo inferiore a prima. Altre regioni, come chiesto dal sindacato FIMG, hanno prorogato direttamente le USCA fino a fine anno. Stefano Vignando, presidente regionale dello SNAMI, sottolinea che il provvedimento che crea le UCA è di tipo organizzativo, sta alle regioni declinarlo e la nostra si è mossa in ritardo nonostante gli avvertimenti, complicandosi la vita con le UCA invece che istituire semplici unità assistenziali Covid. D'altronde, conclude Vignando, l'effetto della nuova variante Omicron e della copertura vaccinale fa sì che le persone stiano a casa e sperano quindi di poter essere assistite a casa. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prosegue la carenza di anidride carbonica che potrebbe mettere a rischio la produzione di acqua minerale frizzante. Una situazione dovuta alla carenza di gas industriali e che vede l'Italia nelle stesse difficoltà di Francia, Germania e Regno Unito e che è collegata all'aumento dei prezzi dell'energia, ormai ricalcolati su base settimanale quando in passato venivano ricalibrati ogni 90 giorni. Per un produttore come Goccia di Carnia la vendita di acqua frizzante rappresenta circa il 30% dell'attività. In arrivo per lo stabilimento di Forni a Voltri dell'azienda un rifornimento di anidride carbonica di cui abbiamo chiesto notizia all'amministratore delegato Samuele Pontisso. Arriva e non arriva con quantità certe, la CO2 arriva allo stato liquido, noi abbiamo un serbatoio da 50.000 kg, probabilmente ci arriverà una fornitura da 20-25.000 kg, quindi abbiamo una settimana, 10 giorni di visibilità avanti a noi. Con la rappresentazione continua da tutti i nostri fornitori che la carenza dovuta al fermo impianto di Ravenna e di altri siti produttivi in Italia non ci dà certezza. Dobbiamo contare sull'estero, quindi materiale che arriva attraverso rotaia o nave, ma che sono tutt'altro che certi, visti anche le difficoltà logistiche del momento in cui viviamo. Quindi non abbiamo la certezza di avere una continuità per il periodo estivo che per noi rappresenta il momento di picco delle vendite. Quali sono le altre carenze contro cui vi dovete destreggiare? Il reperimento di mezzi di trasporto. Mancano probabilmente autisti, ormai da diverso tempo è un problema molto dibattuto in Italia ma nell'intero continente, che viene aggravato dal dilagare della pandemia in questo momento in cui diversi autisti vengono contagiati, devono rimanere in quarantena. Il settore del trasporto, e su di noi viene riversato, impatta fortemente con l'aumento del gasolio e quindi i costi stanno salendo vertiginosamente. Ci sono altre materie che scarseggiano? La ripartenza ha colto diversi player impreparati, mancano ad esempio i bancali in legno, mancano i tappi, mancano tante cose, poi alla fine magari si riesce ad ottenerle, ma a che prezzo? È sopravvissuto ad un volo di un centinaio di metri nel greto di un torrente in Valdogna. È accaduto ad un uomo di 73 anni precipitato con la sua jeep in un dirupo e recuperato dopo 30 ore. L'uomo era andato a fare dei sopralluoghi in alcuni terreni di proprietà quando, come ha raccontato al suo ritrovamento, è stato abbagliato da un raggio di sole ed è precipitato. Nella caduta, seppure traumatizzato e rincastrato nell'abitacolo, è rimasto sempre cosciente, ma ha perso il cellulare e non è riuscito a chiamare i soccorsi. I suoi parenti, non vedendolo rientrare, sono andati a cercarlo e hanno visto i segni della caduta chiamando i soccorsi. Sul posto sono arrivati Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Carabinieri. L'uomo è stato raggiunto dal basso a piedi, liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Udine. Aumenta di altri 40 milioni di euro e arriva a 764 milioni la manovra estiva di bilancio della regione, il cui testo è stato approvato ieri in prima commissione, astenute le opposizioni, ultimo passaggio prima dell'approdo in aula per l'approvazione definitiva a fine luglio, prima della chiusura estiva. Gli ulteriori fondi provengono dall'avanzo di amministrazione del rendiconto generale per l'anno 2021. Tra i nuovi emendamenti della Giunta approvati in commissione, stanziati 18 milioni di euro per i consorzi di bonifica per la realizzazione di nuovi invasi di raccolta o per il ripristino di quelli esistenti. 4 milioni e mezzo per le residenze per anziani non autosufficienti per far fronte all'aumento dei costi degli interventi edili impiantistici e 1 milione e 200 mila euro per il progetto di arte e turismo I Favolosi ONU 17. La settimana del Consiglio regionale è incentrata sui lavori di commissione introduttivi alle sedute degli ultimi giorni di luglio, come detto, per consuetudine dedicate alle variazioni di bilancio. La prima commissione, già riunita ieri per l'assestamento di bilancio e per il documento di economia e finanza regionale 2023, ha in previsione una riunione sul tema anche questa mattina. Dalle 14.30 invece in calendario la seduta dell'Assemblea legislativa, in programma fino a giovedì. All'ordine del giorno anche la designazione di un componente sostituto dell'Osservatorio regionale antimafia, oltre al rapporto sulle attività consiliari 2021 e all'attuazione della legge regionale su molestie e fenomeni vessatori in ambito lavorativo. In chiusura, il disegno di legge che disciplina le piste per gli sport invernali. Enrico Monticolo è stato confermato sindaco di Tor Viscosa dalla sentenza del Consiglio di Stato emessa ieri mattina, a conferma di quella del TAR di Trieste dello scorso febbraio. La parità di voti per Monticolo e Marco Turco, emersa dallo spoglio delle schede delle elezioni amministrative dello scorso ottobre, aveva assegnato la posizione di primo cittadino a Turco, secondo la legge regionale che in questi casi assegna la vincita al candidato più giovane. Monticolo si era quindi appellato al Tribunale amministrativo che, dopo una prima valutazione sull'eguaglianza di voti registrati per entrambi i candidati, in una seconda verifica delle schede aveva assegnato un voto in più a Monticolo a causa dell'anomalia riscontrata in una scheda. Una decisione contro cui Turco si è appellato al Consiglio di Stato, che però si è espresso a favore di Monticolo. L'assembramento dei migranti in Piazza Libertà, dove trovano assistenza al loro arrivo a Trieste, non piace al sindaco di Piazza, che ha intenzione di prendere provvedimenti. Il problema si verifica e si ripete ogni estate con l'intensificazione del flusso dalla rotta balcanica. È diventata la piazza della prima accoglienza. In estate il flusso dalla rotta balcanica è più intenso. I nuovi arrivi in Piazza Libertà sono circa una quarantina al giorno. Organizzazioni non governative forniscono loro assistenza e informazioni e, come deciso nel corso dell'ultimo tavolo per l'ordine e la sicurezza in prefettura, è stata intensificata la presenza della polizia, che svolge un ruolo di controllo amministrativo. La maggior parte di loro richiedono l'asilo, ha precisato il questore Pietro Ostuni. Negli ultimi giorni sono stati espulsi 3 irregolari, mentre un algerino è stato accompagnato al CPR di Gradisca. L'assembramento che si crea in Piazza Libertà non piace al sindaco Roberto Di Piazza, che ha parlato anche della possibilità di recintarla. Non possiamo continuare a tollerare quell'accattonaggio lì in questa piazza, che poi è l'ingresso, è la porta di casa nostra. Accidenti, l'accoglienza c'è, la Caritas e Schiavone fanno già delle cose importanti, semplicemente non possiamo tollerare che questi vivano accampati in questa piazza davanti alla nostra città. Immediata la replica del presidente di Linea d'Ombra, Gianandrea Franchi, ogni giorno in piazza per assistere i migranti. Di fatto succede quello che succede, quello che vediamo in piazza tutti i giorni, vuol dire che le strutture non sono adeguate o non vengono cercati, trovati tutti gli spazi necessari, che pur in una città come Trieste ci sono. Quindi questa indecenza non può essere tollerata e la responsabilità è pienamente delle istituzioni. I posti in accoglienza ci sono, i trasferimenti in altre regioni si stanno effettuando regolarmente, ha spiegato il prefetto Annunziato Vardè. Ma siamo all'apice del fenomeno migratorio ed è normale che si verifichino ritardi. Una situazione che si ripete ogni estate, ha spiegato Gianfranco Schiavone dell'ICS. Gli arrivi sono intensi, i trasferimenti lenti e chi ha diritto all'accoglienza spesso ne resta fuori. Trieste, Vaciucchi, GR Friuli Venezia Giulia. Il carcere come luogo di rieducazione. 20 detenuti della casa circondariale di Trieste, prevalentemente stranieri, hanno ricevuto diplomi di scuola elementare, media o certificati di lingua inglese. Mancano però risorse e personale. Il carcere di Trieste punta alla formazione scolastica dei suoi detenuti, offrendo corsi di italiano, inglese e anche professionalizzanti. In 20 hanno ricevuto i diplomi del Centro Provinciale di Istruzione per Adulti, ma servirebbero spazi e personale. L'adesione resta bassa, i più preferiscono lavorare all'interno del carcere invece che stare sui libri. Il direttore della casa circondariale Ernesto Mari, Graziano Puia. Si tratta di diplomi di istruzione primaria e in particolare l'alfabetizzazione, perché noi abbiamo molti detenuti stranieri e quindi diplomi elementari e medie. Alla cerimonia di consegna dei diplomi ha assistito anche la deputata Deborah Serracchiani. La regione non ha ancora fatto il cosiddetto bando devianze, il bando per le persone fragili. Significa che si rischia di perdere il 2022 per corsi di formazione che per queste persone e per i ragazzi che stanno fuori sono corsi di formazione molto importanti. Resta grave il problema diffuso in tutta Italia del sovraffollamento aggravato dalla mancanza di personale. 142 la capienza regolamentare, siamo a circa 200 detenuti di media, questo dopo la riapertura e quindi finito l'emergenza Covid il problema si è accentuato. C'è anche un problema di mancanza di personale? Purtroppo sì, manca personale a tutti i livelli. Pensi che io qua sono titolare da gennaio, ma qui mancava un direttore fisso da anni. L'area educativa soffre della stessa cosa, l'area sicurezza idem, e quindi è un problema generalizzato. Intanto la riforma delle carceri giace in un cassetto in Parlamento. Il tema delle carceri, ci giochiamo un pezzo della civiltà di questo paese. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono partite le immatricolazioni per il nuovo anno accademico a Trieste. Per Udine si apriranno domani. Per farsi conoscere, gli Atenei stanno proponendo a studenti e famiglie visite guidate e incontri in presenza con i docenti. Tour guidati con visite a aule, biblioteche, laboratori, spazi verdi e punti di ristoro. Dopo 2 anni di Covid non c'è miglior modo per farsi conoscere che aprendo le proprie porte. Succede negli Atenei di Udine, Pordenone e Gorizia dal 13 al 15 luglio, mentre a Trieste gli Open Day sono già partiti nel giorno dell'apertura delle immatricolazioni. Tra i neodiplomati in visita vediamo tanti studenti veneti che scelgono Trieste, come Andrea, 18 anni, di Padova. Cosa vuoi fare? Ingegneria navale. Perché? Perché di mondo navale si sta anche evolvendo, soprattutto nell'ingegneria, e magari entrare proprio a far parte dei progettisti o ingegneri di un futuro navale, ecco, che ancora si deve sviluppare. Parla già 5 lingue Micaela di Venezia, si iscriverà a comunicazione interlinguistica qui. Perché l'ho visitata da piccola e mi sono subito innamorata di questa città. L'Ateneo per quest'anno punta sulla presenza. Le lezioni saranno registrate, visto che ormai la tecnologia c'è e quindi potranno essere riascoltate, ma bisogna frequentare. Io ho fatto 2 anni di superiori in DAD e non è stato facile. È proprio una mancanza che ho sentito del rapporto con i docenti, con anche i miei compagni. A guidare nella scelta studenti già iscritti che si mettono a disposizione dei più giovani, come Davide Francesca, futuro medico lui, farmacista lei. Beh, questi eventi informativi mi piace perché noi, lavorando con l'orientamento, riusciamo a, appunto, orientare i ragazzi, quindi a cercare di fargli capire il perché iscriversi all'università e in che cosa iscriversi. Credo che si possano avere tante idee, ma poi quello che effettivamente si va a fare e a studiare magari non corrisponde alle proprie idee, quindi confrontarsi con qualcuno che sa queste cose aiuta molto. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'incontro sul tema il consulente tecnico nelle vertenze di diritto di famiglia, ausiliario del giudice o giudice della causa, includerà gli interventi di Sabrina Cicero, magistrato del Tribunale di Trieste, e di Luisa Manosperti, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Trieste. Con loro Roberta Rustia, presidente della sezione di Trieste dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia. Al centro dell'evento le varie competenze che sempre più spesso sono demandate ai consulenti, con costi sempre più gravosi per le famiglie. Appuntamento a Trieste, al Centro Studio Unicusano di via Fabio Severo, dalle 17. Ieri sera a Roma la proiezione del documentario Il viaggio degli eroi, dedicato al trionfo dell'Italia ai mondiali di Spagna nel 1982. Tra i presenti alla proiezione anche il friulano Fulvio Collovatti, punto di forza della difesa italiana. L'abbiamo intervistato e ci ha parlato anche di questo film. Io vorrei che quel film fosse trasmesso nelle scuole per insegnare anche i valori del rispetto nei confronti di un allenatore come Berzot, il valore della rivincita. Dopo aver fatto il silenzio stampa, aver giocato male la prima parte, la rivincita, la determinazione, dell'amicizia, il gruppo, che a distanza di 40 anni siamo ancora tutti amici. Per cui ci sono tanti valori che nelle generazioni di oggi vengono un po' a mancare. E tieni presente che ci sono alcuni personaggi che non ci sono più. Uno di questi è Paolo Rossi, che è mancato l'anno scorso e che per noi era più di un fratello. Un altro è Gaetano Scirea, oltre naturalmente a Mr. Berzot, Cesare Maldini, perché ci tengo a sottolinearli tutti, perché tieni presente che Paolo Rossi ha fatto 6 gol, ha vinto il pallone d'oro, è stato campione del mondo, è stato un personaggio che non si è mai esaltato per quello che ha fatto, non l'ha fatto mai pesare. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Si rinnova la tradizione nella festa dei Santi Ermacora e Fortunato, patroni dell'arcidiocesi di Udine, della città e della regione. Oggi alle 10.30 in cattedrale la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal cardinale Dominique Mamberti, accompagnata dal coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Come di consueto, la messa sarà animata da letture e preghiere nelle 4 lingue del territorio diocesano, dunque italiano, friulano, sloveno e tedesco. Al termine della Santa Messa, l'arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato benedirà la città con le reliquie dei santi patroni dal sagrato della cattedrale. Prevista alle 20 nella Basilica di Aquileia la concelebrazione eucaristica con i vescovi della regione, presieduta dal cardinale Giuseppe Betori. È affidata al docufilm Navalny la prima data della rassegna di documentari targata Pordenone Docs Fest, con titoli Da Cuba all'India. Sullo schermo il ritratto del più noto oppositore del regime di Putin in Russia, dal tentato avvelenamento fino all'arresto con l'accusa mai provata di appropriazione indebita. La proiezione sarà introdotta dal giornalista Valerio Pellizzari, collaboratore di testate internazionali come l'International Herald Tribune, Liberation, BBC e Al Jazeera. A Pordenone, nello spazio WOW, in via Brusafiera, alle 21.30. Giornata di inaugurazione per le manifestazioni internazionali Seghizze 2022, in calendario fino a lunedì 18 luglio. La rassegna Nel nome della musica, intesa come mezzo di comunicazione fra i popoli e nel segno di un'auspicata e rinnovata fratellanza, include la partecipazione di cantanti e gruppi da tutto il mondo. Prevista nel 19° concorso internazionale di canto cameristico, l'esibizione di cantanti provenienti da Austria, Indonesia, Italia, Russia e Slovenia, con la proposta di liriche risalenti a fine 800 scritte da Augusto Cesare Seghizzi. Appuntamento a Gorizia, nella sala concerti Seghizzi, in Corso Verdi, alle 14. Il cantautore Simone Cristicchi si esibirà nello spettacolo Paradiso dalle tenebre alla luce a Udine, in Piazza del Duomo, alle 21. L'evento sarà preceduto da un incontro che Cristicchi terrà al Conservatorio Tomadini alle 16 per presentare il nuovo percorso formativo del genere pop rock proposto dall'Istituto dal prossimo anno accademico. Cristicchi parlerà anche del suo percorso artistico, con il successo raggiunto grazie al tormentone involontario Vorrei cantare come Biagio Antonacci e poi la vincita del Festival di Sanremo nel 2007 con Ti regalerò una rosa sul tema delle strutture psichiatriche seguita dalla svolta teatrale. Perché ci vuole orecchio? Ci vuole tutto il pacco immerso. Ci vuole orecchio, Elio canta Iannacci e lo spettacolo del cantautore Elio, che ripercorre la carriera del poetastro, come amava definirsi Iannacci stesso, di cui in sottofondo state ascoltando la versione originale della canzone. In scena è il teatro dell'assurdo e i personaggi borderline descritti da Iannacci, che ricalcano lo sguardo poetico e bizzarro del cantautore più eccentrico, popolare e anticonformista della canzone italiana. A completare la serata, gli scritti e i pensieri dei compagni di vita di Iannacci, da Umberto Eco a Dario Fo e Michele Serra, e tutta la gamma delle riflessioni inclusa nei suoi componimenti, dall'allegria alla tristezza, dalla tragedia alla farsa, dalla gioia alla malinconia. Appuntamento a Pordenone, al Teatro Verdi, alle 21. 32esima edizione per il Festival Internazionale Udine and Jazz e il suo connubio tra musica e cinema, oggi in esordio con i primi eventi musicali. Dopo il vernissage della mostra I colori del jazz della pittrice Ivana Burello nella sala Carmelo Bene del Palamostre e l'aperitivo in jazz con il duo Clemente Valli alla Ghiacciaia, entrambi alle 18.30, alle 20 la sala Pasolini ospita il concerto del pianista udinese Emanuele Filippi, che accompagna dall'olandese Ben van Gelser al sassofono, porta sul palco il suo Heart Chant. Primo ospite della rassegna, sullo stesso palco alle 22, sarà il trombettista Fabrizio Bosso con il suo quartetto che presenterà il suo ultimo album. Sono due le esibizioni del cartellone di oggi della 16ª edizione del Festival Trieste Loves Jazz. Marco Castelli e Marco Ponchiroli propongono con Precious Themes un viaggio tra i grandi compositori di estrazioni ed epoche molto diverse. Da Beethoven, Chopin, Tchaikovsky a Ellington, Piazzolla, Morricone. A seguire Mattia Dediz, concerto dedicato a uno tra i più apprezzati pianisti jazz europei. Appuntamento a Trieste nel giardino del Museo Sartorio dalle 21. Alle 7.47 cominciamo la rassegna stampa, cominciamo dal piccolo di Trieste, al via la quarta dose per gli ultra sessantenni, questo è il titolo di apertura, il ministro Speranza, partiamo subito. La fotonotizia è il richiamo ad un articolo su un impianto innovativo che si trova in via Cabotto e che da settembre produrrà terreni di coltura per le analisi microbiologiche. A fianco l'occupazione aumenta ancora, fame di lavoratori non qualificati. In regione il tasso di impiego è il terzo più alto d'Italia. E poi il richiamo ad un articolo che cala l'ipotesi dello Ius Scholae in Friuli Venezia Giulia, dove sono più di 6.000 i bambini e i ragazzi residenti che si ritroverebbero cittadini italiani a pieno titolo. Dal colonnino di cronaca, manovra comunale, fondi per il taglio tari, la cultura e il verde. Da Prepotto a Peteano una cantina percante nell'ex polveriera. Ancora non si trova posto nel centro di ricovero, Meran resta in carcere. Infine motonave adriatica, la caduta dal ponte del comandante. Dal piccolo di Gorizia vediamo quali sono i titoli diversi rispetto all'edizione di Trieste. Giovedì l'esordio del Consiglio Comunale con 19 nuovi volti. L'Ater investe 4 milioni per il restauro di 68 abitazioni. Rock nell'area verde, scoppia la polemica tra gestore e comune. Maturità a Gorizia, 3 dei 4 centini arrivano dalle serali. Si parla di un istituto professionale dove i 100 sono stati tutti di studentesse. Il Messaggero Veneto apre quantificando un calo del 67% nella fornitura di gas russo attraverso lo snodo di Tarvisio rispetto a 2 anni fa. Altro dato in prima pagina, quello sui 1.000 sanitari assenti dalle strutture ospedaliere della regione a causa del Covid. Nel servizio si parla anche dei preparativi per la somministrazione della quarta dose di vaccino. Un terzo dato riguarda il lavoro nel territorio, che pone la regione al terzo posto nella classifica nazionale ed è in crescita costante, coinvolgendo il 67% degli abitanti, secondo quanto emerge dai dati elaborati dall'Istat e dall'Osservatorio regionale sul mercato. Ancora economia, poi con l'arrivo del bonus statale di 200 euro, che in regione è atteso da 700.000 persone. L'edizione di Udine in fotonotizia si occupa dell'incidente in Valdogna. Capocronaca, le criticità ospedaliere per le mancate sostituzioni degli infermieri in ferie e dell'alto numero di pazienti Covid che costringe il personale a turni di 12 ore. L'edizione di Pordenone dedica la fotonotizia ai prossimi concerti in Friuli e poi passa al rinvio a giudizio di un datore di lavoro per la morte di un dipendente 35enne che stava lavorando all'aperto in una giornata di caldo a 35 gradi. La procura ritiene che siano state violate le norme di sicurezza sul lavoro. Per l'economia, l'abbandono dello stabilimento russo di Electrolux a causa dei problemi creati dal conflitto in Ucraina. L'apertura del Gazzettino del Friuli riguarda un'ipotesi che farà discutere, anche se ha già diversi sostenitori. Positivi senza sintomi al lavoro. Secondo il direttore del Dipartimento di Prevenzione del Friuli Occidentale, non solo non serve fare i tamponi a chi ha avuto contatti con i positivi ed è asintomatico, ma i positivi asintomatici potrebbero pure andare a lavorare. Altro titolo in qualche modo in tema, ospedale, richiami dai riposi e turni massacranti. Sempre a proposito della pandemia, ora il contagio colpisce i bambini, ma pochi vengono ricoverati. Anche qui i dati sull'occupazione che continua a salire, più 111.000 in 5 mesi. Il bilancio regionale, la manovra si arricchisce, ma la minoranza dice fondi a pioggia. La fotonotizia è per la siccità, così si risparmia il 60% dell'acqua sui campi e si parla dell'adozione di sistemi high-tech. Sotto Rissa di Lignano, gli operatori chiedono una stretta. Per il calcio è Bosele e il fenomeno della nuova Udinese. Dall'edizione di Pordenone, cantieri entro agosto, città libera dai lavori sulle strade. Parcheggi, un piano per 80 posti in più in via Vallona. Nuovo mercato, le bancarelle vestono il bianco. Infine, manca l'acqua, polemica sul destino delle anatre. Parliamo del torrente Gorgazzo. Il conduttore televisivo Carlo Massarini racconterà la storia dei Beatles nello spettacolo Magical Mystery in programma a Trieste al Castello di San Giusto alle 21. Sul palco anche la band dei Beatbox con strumentazione identica a quella originale per far rivivere i numerosi successi del celebre quartetto di Liverpool dagli esordi al Cavern Club fino al memorabile concerto allo Shea Stadium per passare alla svolta psichedelica con scenografie e costumi creati dalla sartoria che li creò per la tournée americana. Il concerto tributo a Freddie Mercury con il gruppo dei Toys, incluso nel cartellone della 23esima rassegna Incontri d'estate in biblioteca, è previsto a Ronchi dei Legionari in Piazza della Concordia alle 21.15. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vueo Fevelin D, che parlerà della situazione di carenza idrica nella pianura friulana, interessata solo marginalmente dalle piogge del 29 giugno scorso e da quelle poche precipitazioni cadute la scorsa settimana. A seguire, dalle 11.20 circa, la seconda puntata di A Tutto Bit con Orio Di Brazzano e Tania Marmai. Spiegheremo come districarsi nella giungla di tariffe e telefonate promozionali in fatto di consumi domestici e poi con YouTuber a spasso nella rete a caccia di miti e leggende in Friuli Venezia Giulia. I programmi regionali tornano poi alle 14. Si conclude qui questa prima edizione del giornale radio regionale che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia per la parte tecnica Viola Romanese, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. A tutti voi grazie per averci seguito, ancora una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.